in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli e benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi, come potete immaginare, sono quasi tutti focalizzati sulla prima pagina sulla morte di Fidel Castro. La notizia è arrivata nella notte di ieri, ora italiana, e quindi si può registrare sui giornali soltanto oggi. Ci sono però alcune eccezioni e cominciamo dal Sole 24 Ore, che sceglie invece di dare il titolo principale alla firma del contratto dei metalmeccanici. L'avete sentito anche nel GR, è significativa. Primo, è una buona notizia sempre quando si firma un nuovo contratto, specie se le trattative andavano avanti da molto tempo. Comunque si è concluso con un buon compromesso tra le richieste dei sindacati da una parte e degli imprenditori dall'altra, e soprattutto sono tornati uniti i sindacati. Anche questa è una buona notizia, tanto che poi c'è un commento sulla prima pagina del Sole 24 Ore di Valerio Castronovo, uno storico tra l'altro da sempre molto concentrato sulla storia economica contemporanea. Il titolo è Discontinuità di metodo e contenuti e lo trovate poi a pagina 3. Naturalmente c'è anche la morte di Fidel Castro e qui veramente la sintesi, perché poi vedrete sugli altri giornali ci sono pagine, è difficile capire che cosa leggere, o magari c'è qualcuno che leggerà ogni articolo religiosamente, come direbbe Mauro Meazza. Qui è molto sintetico, c'è un po' di cronaca dal titolo principale con Roberto Darin, che è della nostra redazione del Sole 24 Ore, quello che ha trascorso più tempo in America Latina e quello che ha più forse il polso appunto non solo di Cuba ma dell'intero continente, e il titolo è L'addio del mondo a Fidel Castro, il leader cubano che sfidò gli Stati Uniti, e gli altri tre pezzi sono richiamati in prima pagina e poi continuano alle pagine 8 e 9, danno secondo me i tre temi fondamentali. Da una parte appunto l'eredità, e quindi un'eredità controversa. Il pezzo di Alberto Negri, vi leggo le prime righe. È morto Fidel Castro e con lui forse muore ancora una volta Che Guevara, che della rivoluzione cubana e dei grandi rivolgimenti segnati dal comunismo è rimasto il simbolo più popolare, consegnato tra icone della storia da una fine eroica. L'eredità di Castro è più controversa e assai meno romantica di quella del Che. Poi c'è l'articolo di Mario Platero che ipotizza che cosa potrebbe succedere nei rapporti con gli Stati Uniti, e poi di Marco Roncalli, quel dialogo privilegiato con il Vaticano. La Repubblica addirittura fa quell'operazione, sapete, che ogni tanto fa anche La Stampa, di fare una seconda copertina che poi si apre subito e si trova la vera copertina del giornale, e questa seconda copertina dedicata a su sfondo verde dedicata a Fidel Castro 1926-2016. Infatti aveva compiuto 90 anni Fidel Castro, una foto di Fidel Castro, un richiamo, poi lo vedremo, all'inserto, il nuovo inserto culturale della Repubblica che sarà in edicola ogni domenica. La novità è completamente rivoluzionato nella grafica, in parte anche nei contenuti, e poi diventa estraibile, si chiama Robinson, poi lo vedremo, questo è richiamato accanto alla foto di Fidel Castro, e sotto sono richiamati tutti gli altri articoli su Fidel Castro che occupano le prime 12 pagine della Repubblica. E infatti il titolo principale, se poi appunto aprite questa finta copertina, è Fidel, l'ultimo comunista. In prima pagina non ci sono praticamente altre notizie, no, senza praticamente, non ci sono altre notizie. Anche sulla seconda copertina, sulla seconda copertina però una cosa importante, c'è naturalmente l'editoriale di Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, che parla di altro. L'ideologia dei 5 Stelle, la deriva dell'uomo qualunque. Passiamo invece, e qui vi segnalo subito, a parte come sapete da quando il direttore Tommaso Cerno da agosto di quest'anno, l'Espresso anziché uscire di venerdì esce alla domenica insieme a Repubblica, la copertina è dedicata al piano segreto per salvare la RAI. Questa inchiesta di Riccardo Bocca è stata in realtà anticipata dai giornali nei giorni scorsi, addirittura è stata aperta un'inchiesta per capire come mai ci siano stati questi leaks, queste indiscrezioni sul piano, che prevederebbe che il TG2 venga spostato a Milano, che Rai News 24 e notiziari regionali vengano uniti e molte altre cose. Questa è la copertina e poi lo trovate all'interno dalle pagine 27 in poi. Ma molto interessante la copertina del Manifesto, che mentre l'Unità non ha più in prima pagina la parola comunista, perché sotto la testata c'è scritto solo fondata da Antonio Gramsci nel 1924. Il manifesto ha ancora subito sopra la sua testata quotidiano comunista, ma non apre con la morte di Fidel Castro, che è in prima pagina, ma sotto un titolo che il manifesto considera più importante. E io, anche se qualche lettore dice che dovrei esprimere meno giudizi, ma così lo dico, io la trovo una scelta coraggiosa e molto bella. Il titolo principale è Capitale Donna, cioè il riferimento è alla manifestazione che c'è stata ieri a Roma, 200.000 le persone in piazza, non solo donne, per dare comunque un segnale perché finisca questa spirale di violenza contro le donne e dei femminicidi, in giorni tra l'altro in cui abbiamo dovuto registrarne altri due. E la cosa altrettanto incredibile è che dalle pagine, quindi copertina, e poi dalle pagine 2 e 4 c'è la cronaca di questa giornata. Fidel arriva dopo, poi ci sono anche tanti approfondimenti su Fidel dalla pagina 6 alla pagina 12 del manifesto, ma ripeto, dopo la manifestazione di Roma. Il Corriere della Sera ha in prima pagina una foto di Fidel con la sua famosa giacca verde da militare, quando deve aver avuto circa un 20 anni meno di quindi circa 70 anni. Mette anche altre notizie in prima pagina, al contrario della Repubblica, per esempio un'intervista, una sorta di retroscena, perché in realtà poi l'intervista è sul Messaggero, però anche di questa sono uscite delle anticipazioni, con l'idea appunto che della ricandidatura di Berlusconi, e l'articolo lo scrive per il Corriere della Sera Tommaso Labate. La stampa sceglie anche lei di titolare sulla morte di Castro a tutta pagina, La rivoluzione senza Fidel, però ci sono anche altre notizie in prima pagina, per esempio un intervento di Vladimir Putin. Sorrido non perché sia poco serio, anzi trovo molto interessante, ma appunto è interessante il fatto stesso che Vladimir Putin abbia mandato ad alcuni giornali europei un intervento diretto. Il titolo che sceglie la stampa è il tempo di fidarsi della Russia, fronte comune contro il terrore. E poi c'è un'intervista molto interessante, che poi magari vedremo un po' più nel dettaglio alle pagine 12 e 13, a Jean-Claude Juncker, il controverso, potremmo dire, presidente della Commissione europea. E qui fa una specie di mezzo endorsement al referendum, spero non vinca il no. E poi vedremo, perché ricordo che siamo assolutamente in regime di par condicio, adesso segnalerò sicuramente invece qualcuno che è per il sì. L'Unità ha una specie di, non so come dire, cioè il quadrato in alto a sinistra, che è la testata vera e propria, l'Unità rosso, e poi c'è un grande spazio, circa metà della pagina dell'Unità, nero, con un profilo di Fidel Castro, l'ultimo del secolo delle illusioni. Ma il titolo principale, come il Sole 24 Ore, è dedicato alla firma del contratto per i metalmeccanici. Accordo unitario, sottolinea anche l'Unità, dopo che c'erano stati gli ultimi due rinnovi senza la CGIL. E poi io sto un po' di proposito, devo dire, evitando tutta la cronaca sul sì e il no al referendum, manca esattamente una settimana al voto, e in questo caso l'Unità sceglie di titolare con queste due piazze. Da una parte Grillo, quella del Movimento 5 Stelle, sono due piazze entrambe di Roma, due manifestazioni di Roma, una è quella di cui abbiamo parlato, contro la violenza contro le donne, e l'altra è uno degli ultimi comizi, probabilmente del Movimento 5 Stelle, e con la citazione di questa frase di Grillo: votate con la pancia. Avvenire a una foto di Fidel Castro, anche qui probabilmente 10-20 anni fa, adios, punto interrogativo, ma ci sono tantissime altre notizie in prima pagina sull'Avvenire, e una notizia che poi vedremo all'interno, che mi sembra molto interessante, è un approfondimento sugli arsenali nucleari che ancora esistono. Trovate poi tutto a pagina 9, l'incubo arsenali nucleari, ONU, è tempo di ripensarci, perché in realtà parliamo tanto di sono decenni che parliamo di disarmo nucleare, poi se si va a vedere si scopre che in realtà gli arsenali nucleari sono ancora tutti lì. E tra l'altro con la morte di Fidel Castro la mente torna naturalmente anche alla guerra fredda e all'episodio che vide Cuba a rischio quasi guerra, di scatenare una guerra mondiale nel contrasto con l'allora presidente che era JFK, John Kennedy. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, avremo anche degli aggiornamenti sul pazzo meteo e poi ci ritroviamo subito dopo. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, bentornati alla nostra rassegna stampa, grazie agli ascoltatori che, benché sia così presto, stanno mandando dei messaggi al 349-238-6666 o sms o whatsapp. Eravamo sulle prime pagine, ci mancava quella del Messaggero, Cuba Libre, il titolo principale con una foto di Fidel, ma ci sono anche tante altre notizie in prima pagina. Vi dicevo l'intervista fatta da Barbara Yerkov a Silvio Berlusconi, il titolo scelto: sono pronto a ricandidarmi, non sosterremo altri governi. In prima pagina anche una notizia che credo interessa molti di noi: vendite al telefono, arriva la legge blocca scocciatori, stop anche per quanto riguarda le telefonate che riceviamo non solo ai nostri numeri fissi ma anche ai cellulari. Il Libero: uragano politico in vista, quindi il titolo principale non è su Fidel Castro ma su quello che potrebbe succedere dopo il 4 dicembre con l'esito del referendum. La morte di Fidel Castro però è sulla prima pagina di Libero con il titolo meglio tardi che mai. Qui li cito entrambi perché uno è per il sì e uno è per il no, due gli interventi sul referendum, uno di Gianluca Vacchi, che sapete fa parte di una famiglia di imprenditori, il cugino Alberto Vacchi è stato anche candidato alla presidenza di Confindustria, lui più che è molto conosciuto per la sua vita di cui ci racconta a me, no, personalmente sui social, su cui è molto presente, ha molti follower. Da settimana scorsa interviene ogni domenica su Libero. Il titolo dell'articolo di oggi, che poi trovate, occupa l'intera pagina 4: io tifo Italia, voterò col portafoglio, e poi spiega perché votare sì. Mentre Antonio Socci a pagina 5 spiega perché votare no, io tifo Italia e mi fa paura il rottamatore. Il titolo esatto del pezzo di Renzi è: se vogliamo salvare il paese rottamiamo Renzi Ganassa. E invece il titolo dell'intervento di Gianluca Vacchi: decidete con il portafoglio, per il bene dell'Italia dico sì. Sempre la parola decisione sul Fatto Quotidiano, che fa una scelta simile a quella della Repubblica, cioè una doppia copertina, e la prima copertina è decidete voi, e c'è una specie di sovrapposizione tra il no e il sì, e poi all'interno, poi invece appena sfogliate aprite il giornale, poi c'è la vera copertina del Fatto che parla della morte di Fidel Castro. Ciao Fidel, forse questo è il titolo più sintetico ma anche più bello che ho trovato. Ciao Fidel, la rivoluzione è finita, morte di un tiranno affascinante. Il titolo principale però del Fatto Quotidiano è dedicato a un'esclusiva del Fatto su un documento dell'Agenzia delle Entrate. Il titolo: il fisco si arrende agli evasori. In Veneto, una che viene definita dal Fatto regione ricca e con molta economia in nero, il nuovo ordine in questo documento dell'Agenzia delle Entrate è di non perseguire l'evasione di imprese e lavoratori autonomi se fatta in testuale modica quantità. Il giornale Cuba Libre, quindi come il Messaggero, morto Fidel Castro, è il titolo principale, con tre interventi richiamati, uno di Mario Cervi, che è un grande giornalista scomparso circa un anno fa, che era uno dei cofondatori del giornale insieme a Indro Montanelli. La storia lo aveva già archiviato, questo il titolo, lo trovate poi a pagina 3, l'articolo intero, e molti altri approfondimenti, ma anche un richiamo all'intervista di Berlusconi di Francesco Kramer, e anche un po' di retroscena: verdiniani e renziani vogliono la testa della Lorenzin per quanto riguarda invece i dissapori all'interno del governo. La Verità, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro più di un mese fa, ha un titolo ancora diverso, con Obama record di espulsioni, quindi un approfondimento di Francesco Borgonovo su appunto le espulsioni dagli Stati Uniti degli immigrati clandestini. Solo qui non cacciamo nessuno. Il presidente americano ha rimpatriato 2,5 milioni di clandestini durante i suoi due mandati, più di Bush, il suo predecessore. L'Italia non riesce a farlo neppure nei rari casi in cui scatta l'ordine di allontanamento, perché oltre la metà disobbedisce e non succede nulla. La morte di Fidel Castro però è ovviamente sulla prima pagina, con il titolo "Morto Castro e finalmente forse anche il comunismo", e l'articolo lo scrive il direttore Maurizio Belpietro e lo trovate poi a pagina 3. Tra i moltissimi articoli sulla morte di Fidel Castro ve ne segnalo uno sull'Avvenire, molto sintetico, ma appunto in tre colonne, quindi poche righe, secondo me fa una sintesi molto efficace. Lo scrive Giorgio Ferrari, si intitola "I voli del leader massimo caduto sui diritti umani", e vi leggo solo il sommario: eternamente in bilico fra grandezza e miseria, utopia e crudo realismo, repressione e slancio ideale, Castro consegna al mondo il mistero della sua persona, tante anime che si inseguono e si annullano. Il manifesto ha un altro approfondimento curioso che si intitola "Hollywood e le armate rivoluzionarie", e Giulia Dagnolo Vallan ripercorre un po' tutti i film americani che hanno parlato di Cuba o dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti. "Così la Mecca del cinema ha messo in scena le atmosfere del grande gelo fra Cuba e Stati Uniti, da Lester a Stone, Oliver Stone, passando per Coppola". Ma passiamo invece alle pagine interne dei quotidiani, torniamo sul Sole 24 Ore, che ha un approfondimento sulla riforma della pubblica amministrazione. Avete sicuramente sentito che c'è stata questa sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato appunto incostituzionale una parte della riforma Madia sulla pubblica amministrazione. E adesso cosa succede? Ecco, questo ce lo spiega il Sole 24 Ore. Riforma della PA, sono tre i decreti da rifare, perché sapete che ogni legge poi ha bisogno dei suoi decreti attuativi. Gianni Trovati, il nostro massimo esperto di pubblica amministrazione e di enti locali, dopo lo spot della Consulta, cioè la Corte Costituzionale, inevitabile correggere gli articoli che riguardano le partecipate, i cosiddetti fannulloni e i dirigenti sanitari, che sono tre cose non da poco. Sempre dalle pagine interne del Sole 24 Ore, per la sesta settimana, o forse addirittura già la settima, aspettate che controllo... Sì, è la settima settimana di questa iniziativa, questa nuova iniziativa del Sole 24 Ore, che dedica al sabato e alla domenica una pagina all'argomento sport e business. Questa settimana la pagina si occupa soprattutto di tennis. L'Italia riscopre il fascino del tennis, crescono tesserati e giro d'affari. Il fatturato della federazione in 5 anni è aumentato da 38 a 60 milioni di euro. Ed è abbastanza eccezionale, anche perché a volte si pensa che ci siano questi boom del tennis quando ci sono grandi campioni. Noi abbiamo avuto sicuramente un exploit negli anni scorsi, però tutto sommato non sono più i tempi di Adriano Panatta, e perciò vuol dire che al di là del traino che può fornire un campione, piace proprio questo sport. Dal Corriere della Sera, lo trovate anche su altri giornali, per cui è un approfondimento un po' più ampio. Potremmo andare, vedremo, ricorderete tutti la vittoria di Bush al primo mandato, quando poi non venne decretato il vincitore, che poi appunto fu George Bush contro Al Gore, per molti giorni, perché si dovettero ricontare i voti, in particolare quelli della Florida. Un po' un incubo questo che torna, perché in Wisconsin ci sono stati dei ricorsi e quindi si dovranno ricontare, e Hillary Clinton ha detto che si seguirà con molta attenzione questa vicenda. È però arrivata una parola di Obama molto chiara: il risultato non si discute. Al corteo delle donne, pensate, il Corriere della Sera dedica, saranno 40-50 righe, il corteo di donne e uomini, 200.000 no alla violenza, e sotto c'è un'intervista a Gabriella Feliziani, una signora che vive nelle Marche, che è una delle persone che aveva insultato Laura Boldrini su Facebook, e sapete che 2 giorni fa la Presidente della Camera ha reso pubblici tutti questi messaggi di odio che riceve su Facebook e sugli altri social in cui è presente. Vi segnalo sempre in tema Fidel Castro, perché ripeto c'è veramente l'imbarazzo della scelta oggi sui giornali su cosa leggere, un'intervista che ha Repubblica a Joaquín Navarro Valls, che ricorderete per molti anni è stato il portavoce del Vaticano, e ricorda l'incontro tra Fidel Castro e Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, che avvenne nel 1998. Poi nel 2012 andò anche Ratzinger, e poi lo scorso anno invece Papa Francesco, che andò a Cuba. E per questo appunto citavo anche l'articolo del Sole 24 Ore intitolato "Quel dialogo privilegiato con il Vaticano", fatto sostanzialmente in tre tappe con gli ultimi tre papi. Vi segnalo anche un'altra intervista a Inge Feltrinelli, che ne ha concesse anche altre ad altri giornali. "Io, Gian Giacomo e Fidel, quegli incontri in pigiama a parlare di donne politica", trovate su Repubblica a pagina 11. Una bella notizia dalla Repubblica riguarda una ricercatrice che si chiama Cinzia Brunelli ed è la prima italiana a ottenere un dottorato in cure palliative, però per averlo ha dovuto andare fino in Nigeria. Ci lasciamo un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo nelle pagine interne dei quotidiani e vi segnalo, prima da Repubblica, vi ho segnalato questa che io considero una bella notizia, la prima scienziata donna che ha ottenuto un dottorato in cure palliative. A proposito sempre di sanità e di temi un po' irrisolti ma che toccano moltissime persone, un reportage sulla Stampa da quella che viene chiamata la clinica delle vite sospese tra carezze e speranze di risveglio. Viaggio nell'unica struttura pubblica che si trova a Roma, si chiama Casa Iride, Casa Iride, e è l'unica appunto struttura in Italia che ospita esclusivamente chi è in stato vegetativo. Ma non abbiamo tantissimo tempo oggi, quindi passiamo subito ai supplementi della domenica, anche perché c'è, come vi dicevo all'inizio, la novità di quello di Repubblica, però iniziamo dal nostro, il Sole 24 Ore, e come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola "Aspettare", e la citazione è questa: "L'agricoltura è l'arte di saper aspettare". Nel 1927 Riccardo Bacchelli pubblicava "Il diavolo di Al Ponte Lungo", un romanzo che riusciva a contaminare la drammaticità della storia con la satira e persino con l'umorismo. Dopo tanti anni, dalla mia prima lettura giovanile nei tascabili popolari che allora apparivano, l'ho ripreso in mano e propongo questa citazione, simile a un lacerto, che lascio privo di contesto e di motivazione. Il messaggio è però chiaro, soprattutto oggi, in un mondo che freme fino alla frenesia. Non sappiamo attendere, anche quando si è in fila si cerca di scavalcare chi ti sta davanti. Eppure sappiamo bene che per plasmare un bambino ci vorranno sempre 9 mesi, nonostante tutte le tecniche di accelerazioni, le stagioni e i ritmi della natura sono costanti nel loro svolgersi. Il saper aspettare è segno di pacatezza, è tempo di riflessione, è preparazione alle sorprese della vita. Non per nulla da secoli nel calendario cristiano ci sono le settimane di avvento, il momento dell'attesa di una nascita, di una speranza, di una luce. Poi c'è la rubrica memorandum del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che è dedicato a un ricordo di un incontro con Romano Prodi. E poi anche un ricordo del ricordo, perché Romano Prodi ricordò quando Barbara Bush, che era la moglie di Bush Senior, il papà di George Bush, disse: "Io ho 2 figli, non so quale dei 2 sarà presidente, ma uno dei 2 sicuramente", quindi una profezia che si è davvero avverata. Ma la copertina vera e propria è dedicata a una esclusiva del Domenicale, lo scrive l'articolo Armando Massarenti, che del Domenicale è il direttore. Si intitola "Spesso il male di vivere ho incontrato", e sono 3 lettere inedite di Eugenio Montale, che oltre a essere uno dei più grandi poeti italiani, uno dei più grandi poeti al mondo del secolo scorso, ha anche vinto il premio Nobel nel 1975. In 3 deliziose lettere inedite, di cui una viene proposta qui a fianco, Montale spiega qual è quel suo secondo mestiere, cioè quello di critico letterario e di giornalista. Sempre dalle pagine pagine dal Domenicale, vi segnalo, anche qui siamo alla settima settimana, le quattro pagine dedicate ai lettori più piccoli, c'è qualcuno che sa leggere, e la copertina, il pezzo principale è bellissimo, è da oggi fino a Natale disegniamo tramonti. A proposito di avvento, uno dei tanti modi per appunto accompagnarci verso il Natale, bambini, volete sapere che cos'è un solstizio? Prendete matiti e pastelle, in poche settimane diventerete dei piccoli astronomi. E poi vi segnalo, a proposito di disegni e non solo, la recensione di Domenico Rosa alla bellissima mostra che c'è vicino a Udine, a Passariano, a Villa Manin, fino al 19 marzo, quindi c'è tutto il tempo per andare a vederla. È una mostra dedicata a Lorenzo Mattotti, che è molto difficile da definire, illustratore, pittore, fumettista, ha firmato alcuni cortometraggi, è forse uno dei pochi, credo che sia l'illustratore italiano ad avere il record di copertine del New Yorker. La mostra si chiama Sconfini, proprio perché è un artista che sconfina. La recensione è affidata a Domenico Rosa, che del Sole 24 Ore è illustratore, quindi competente anche tecnico, ma poi non è la prima volta che scrive di Lorenzo Mattotti, è un esperto, potremmo dire, di Lorenzo Mattotti. Vi dicevo, Robinson, questo nuovo inserto estraibile della Repubblica, questo è il numero uno, ha una grafica completamente diversa, molto spazio nelle pagine accanto agli articoli, molto bianco. Il titolo, l'articolo principale, quello della copertina, è dedicata a Wisława Szymborska, la poetessa polacca scomparsa nel 2012, che però 20 anni fa esatti ricevette il Nobel. La recensione principale è il ricordo della poetessa e anche la recensione delle sue opere principali, che in Italia sono pubblicate quasi tutte da Adelphi, è di Vlodek Golkorn, e poi c'è un articolo di Roberto Saviano che ormai è veramente esterna su tutto, mi ha colpito questa settimana su Oggi, ha persino espresso la sua sul processo per l'assassino di Yara Gambirasi. Ho detto che secondo lui non è stato condotto bene, poi naturalmente è dappertutto, anche perché è appena uscito il suo nuovo libro che è in testa alle classifiche, La paranza dei bambini. Resta su Robinson quel consueto appuntamento con le interviste di Antonio Gnoli, illustrate anche qui da un altro grandissimo illustratore italiano che è Riccardo Mannelli. Questa settimana è Maurizio Pollini, grandissimo pianista, e il titolo scelto per l'intervista è Quando suono cerco l'irripetibile. Poi la lettura, il supplemento del Corriere della Sera, che invece è arrivato al numero 261, è abbastanza recente anche questo, ma comunque appunto vuol dire una volta alla settimana, quindi circa 4 anni fa è nato. La copertina, come sempre, affidata a un artista, questa settimana Jonathan Monk. Dall'interno vi segnalo una bella intervista a Francesco De Gregori, il cantautore, tra l'altro anche qui una bellissima illustrazione di un'illustratrice, Silvia Codignola. L'intervista la fa Giuseppe Antonelli e lui dice: la tastiera che suono è una lettera 32, cioè la famosa macchina da scrivere. Si parla anche del premio Nobel a Dylan, che sapete qualche polemica l'ha suscitata, soprattutto per le reazioni del cantautore americano, che prima ci ha messo una settimana per ringraziare e poi ha anche fatto sapere che quasi certamente non andrà a ritirare il premio Nobel alla cerimonia a Stoccolma. E Francesco De Gregori dice: che equivoco, c'è chi ha pensato che gli fosse stato dato il premio per la poesia e ha ribattuto dicendo: i testi delle canzoni non sono poesia. Bene, io l'ho sempre sostenuto, ma il riconoscimento è per la letteratura, non per la poesia. Se, come me, credi a una letteratura allargata, allora è diverso. Non troverei scandaloso se si fosse dato il Nobel a Disney o a Chaplin o anche a Picasso. E poi, sempre su questioni di libri, sapete che da quest'anno ci saranno, oltre al Salone del Libro di Torino, che si terrà in maggio, anche una fiera che è stata battezzata Tempo di Libri, che si terrà a Milano invece dal 19 al 23 aprile, Editori Spaccati, e in questo approfondimento, un forum che c'è stato alla lettura, si è parlato di questo con molti interlocutori. Il titolo: permeabilità tra libri per adulti e ragazzi, il digitale senza uno spazio, perché sarà ovunque. Era però l'ultima segnalazione per oggi. In realtà un'ultimissima cosa, la copertina di Macro del Messaggero, che è dedicata ad Arnaldo Pomodoro, che compie 90 anni e viene celebrato a Milano. Il titolo: Il mago della sfera che dà vita al bronzo. Ma era veramente l'ultima segnalazione per oggi. Ancora una buona domenica da Giulia Crivelli, e comprate tanti giornali, perché oggi appunto, oltre a Fidel Castro, ci sono anche i supplementi culturali.